Bene, allora riprendiamo e do la parola a Claudio Donati che ci parlerà di curie diocesane, vicari episcopali e visitatori. Sì, aggiungerei tra 6 e 700, ecco, per dare una connotazione cronologica al mio intervento. Lo schema del presente intervento prevede quattro punti e per poterli svolgere tutti, non so se riuscirò, dovrò naturalmente essere molto sintetico e mi auguro che sintesi non venga a significare genericità e superficialità, e in ogni caso, se sarà necessario e se ci sarà tempo, sono pronto a riprendere in sede di discussione gli eventuali aspetti del mio discorso che dovessero presentarsi un po' tronchi o ellittici. Cominciamo dal tema generale a cui si ricollega la mia esposizione. In precedenti occasioni, nell'affrontare questioni connesse alla storia delle istituzioni ecclesiastiche tra 600 e 700, mi è stato utile richiamare un passo dell'istoria del Concilio di Trento di Pietro Sforza Pallavicino. Il Pallavicino intendeva confutare la tesi sarpiana secondo cui nei felici tempi del cristianesimo il nome di Chiesa era comune a tutta l'adunanza dei fedeli, alla quale apparteneva l'uso e il dominio dei beni che si chiamano ecclesiastici. Tesi per il Pallavicino propria dei sediziosi, sempre pronti a sparger concetti mascherati di zelo popolare al fine di abbattere non solo i monarchi, ma gli ottimati. La definizione proposta di Chiesa proposta dal Pallavicino era invece la seguente. Come osserva Aristotele, che il nome di città si prende talora per tutta la moltitudine dei cittadini, talora per la parte principale governante, che è il Senato, così il nome di Chiesa non sempre significa tutti i fedeli e pigliasi alcune volte per la parte principale governante, che è il clero, e anche talora più strettamente per i soli magistrati supremi, che sono i vescovi. Pallavicino dunque affermava due punti. Primo, la separazione del clero governante dal popolo dei fedeli. Secondo, il ruolo centrale degli episcopati in questo processo. Ma dobbiamo chiederci, si trattava di una descrizione realistica, di una fotografia della situazione esistente ai tempi suoi? Oppure ci troviamo di fronte alla prefigurazione di un modello da perseguire, rifacendosi principalmente ai decreti inattuati del Concilio Tridentino, ma conformandosi anche all'ideologia politica trionfante nell'Europa tardo-barocca, che si fondava sul predominio, ora concorde, ora conflittuale, di monarchia e nobiltà? A me pare che a metà Seicento non si possa descrivere il clero secolare dei territori dell'Europa cattolica e dell'Italia in particolare come un universo compatto e chiaramente separato e distinto per comportamenti, cultura, segni di riconoscimento dal mondo del non clero, cioè dai laici. Basti richiamare tra le tante, ma gli esempi potrebbero essere molteplici, e molti in fondo ne sono già stati richiamati ieri, nei precedenti interventi di oggi, vorrei richiamare due realtà tutt'altro che marginali, le quali sembrano smentire questa visione di una compattezza del clero come corpo organico. Da un lato, la presenza diffusa e in certe aree del Mezzogiorno d'Italia maggioritaria di chierici minoribus che non indossavano l'abito ecclesiastico, non servivano a nessuna chiesa, spesso giravano armati. Dall'altro lato, il gran numero di chierici e presbiteri, soprattutto nelle città e nei borghi, che spesso ordinati a titolo di patrimonio, continuavano a vivere presso le famiglie di origine, senza esercitare alcuna funzione pastorale. quanto al preteso, secondo punto, al preteso ruolo preminente degli episcopati, più di una perplessità nasce quando si esaminino le fonti, soprattutto romane, tra gli anni 20 e gli anni 60 del 600. In primo luogo, molti vescovi non risiedono. La congregazione Super Residentia Episcoporum, sorta nel 1635, più che a colpire gli inadempienti, serve a sanzionare la volontà dei vescovi di non risiedere. Ogni giustificazione è buona: presenza di banditi, necessità di nella propria diocesi, necessità di curare gli affari propri o della propria diocesi nei tribunali centrali, Napoli, Venezia, pullulano di vescovi, cattiva salute, e Roma naturalmente, cattiva salute, cattiva aria. E ho richiamato anche questo concetto di cattiva aria, era molto vasto e onnicomprensivo. Napoli, per un vescovo di Lodi, era considerata cattiva aria. E ci sono poi due ragioni non espresse esplicitamente, ma costantemente presenti. Seppellirsi in una diocesi, l'espressione è del vescovo di Brescia, poi cardinale e papa Pietro Ottoboni, cioè uscire dal circuito che conduce al cardinalato, era considerata una terribile iattura. E in secondo luogo, e collegata naturalmente alla precedente, la poca convenienza economica, cioè, e qui ci ricolleghiamo e lo richiamo soltanto, al nodo delle pensioni, a cui sono stati dedicati tanti studi, tra cui quello ben noto di Mario Rosa. Ma anche se il vescovo risiede, l'esercizio delle prerogative che gli sono teoricamente garantite dai canoni conciliari e che i sinodi post-tridentini hanno spesso solennemente sancito e precisato, risulta difficile per la presenza di forze ed istituti della più diversa origine e natura che gli si oppongono. Qui naturalmente il discorso diventerebbe troppo ampio e mi limiterò a due soli punti, anche qui. Primo, l'interventismo dei tribunali dell'Inquisizione in materie solo mediamente e talora surrettiziamente connesse al pericolo dell'infezione ereticale, e mi richiamo agli studi di Prosperi, soprattutto su questo punto, limita grandemente l'ambito della giustizia criminale esercitata dalla curia episcopale. Secondo, la stessa struttura parrocchiale, che in teoria dovrebbe costituire il nerbo della potestà episcopale sul territorio, sfugge in misura notevole, anche se variabile da diocesi a diocesi, al controllo dell'ordinario. Per vari motivi, ma quello che subito salta all'occhio è che molti parroci sono stati scelti da persone ed enti che si trovano spesso in conflitto col vescovo. È stato richiamato prima il caso, per esempio, della religione di Santo Stefano per quello che riguarda Pisa, ma si potrebbe richiamare i capitoli cattedrali, ordini religiosi, famiglie, comunità, eccetera. Ma se questa è la situazione prevalente a metà 600, non è certamente più la stessa mezzo secolo più tardi. E se ci spostiamo ulteriormente di un altro mezzo secolo e arriviamo all'età di Benedetto XIV, ci troviamo di fronte a un quadro che in notevole misura richiama, se vogliamo, la definizione di Sforza Pallavicino che ho dato all'inizio, che ho proposto all'inizio. Non credo che si possa far risalire questa evoluzione a un'unica causa, e tantomeno soltanto a una causa interna all'evoluzione del mondo ecclesiastico. Certamente un elemento importante che è stato tante volte ricordato dagli studiosi, anche se con valutazioni non sempre identiche, è il ridimensionamento della centralità romana, o forse per meglio dire del mito della centralità romana alimentato nell'epoca dei grandi papi della Controriforma fino a Urbano VIII. In realtà la crisi della monarchia pontificia maturata nell'epoca del pieno affermarsi dell'assolutismo monarchico, e qui naturalmente il pensiero va al libro il sovrano pontefice di Paolo Prodi, non porta a una dissoluzione e a uno scadimento delle istituzioni ecclesiastiche e delle persone ad esse preposte, ma piuttosto a una propongo questa formula, un aggiustamento di prospettive di fronte a una situazione nuova e difficile. È un tema troppo vasto anche questo, e poi di fronte a Prodi mi sento un po' intimidito, ma ho voluto richiamarlo perché ritengo che non si debba mai perdere di vista, nello studiare istituzioni cattoliche periferiche, quel che accade a Roma. E nella curia romana del tardo Seicento emergono sempre più due organi che possono simboleggiare la risposta della Santa Sede alla sfida dei tempi nuovi. Da un lato la segreteria di Stato, dall'altro la propaganda fide. Mentre, e qui mi si perdoni l'estrema schematicità, mi sembra che rispetto all'epoca del pieno trionfo della Controriforma si appanni il ruolo chiave della Congregazione del Sant'Uffizio, mentre scompare la figura del cardinal nipote. Ma, per non uscire dal seminato, torno alla questione del ruolo degli episcopati. Una prima svolta importante è stata attribuita al pontificato di Alessandro VII Chigi, che regna dal 1655 al 67, siamo proprio nella seconda metà del Seicento, il quale durante la sua nunziatura in Germania era rimasto impressionato e influenzato dal peso detenuto o riconquistato ultimamente dai vescovi nell'ordinamento ecclesiastico dell'impero. E qui apro un'altra breve parentesi per dire che secondo me per valutare processi come quelli più affrontati lo sguardo comparativo è essenziale. Ad esempio, è certo vero che la pace di Vestfalia indebolisce il potere dell'imperatore e delle libere città imperiali, ma al tempo stesso mi pare che rafforzi l'autonomia dei principi e tra questa anche dei principi ecclesiastici, che conoscono proprio nel tardo Seicento una fase di e nel primo Settecento una fase di notevole splendore. Basti richiamare il caso della casata degli Schönborn, per esempio, che non a caso Iedin usò per caratterizzare proprio questa fase della storia ecclesiastica della Germania. Ma torniamo a Fabio Chigi, il quale, divenuto Papa, affermò l'importanza dei vescovi nel governo della Chiesa sia con misure legislative sia con specifici atti di forte impatto simbolico, come la visita pastorale di Roma e poi delle diocesi suburbicarie nel 1656. Ma questo era solo un primo passo. Perché la funzione episcopale fosse considerata di chi intraprendeva la carriera ecclesiastica una delle più alte, onorevoli e anche remunerative, era necessario da un lato scegliere prelati meritevoli e motivati, dall'altro promuovere il recupero da parte dei vescovi di tutta una serie di entrate e diritti giurisdizionali di cui enti e persone, per lo più ecclesiastiche e non certo ultimi curiali romani e cardinali, godevano ab antiquo o si erano impadroniti di recente. A ciò doveva accompagnarsi un'azione che potremmo chiamare con un termine attuale promozionale. Non è certo un caso che proprio durante il pontificato di Alessandro VII fu ultimata nel 1662 la pubblicazione dei volumi dell'Italia Sacra del cistercense Ferdinando Ughelli, una delle prime realizzazioni della nascente erudizione benedettina, che, come suonava il sottotitolo, si proponeva di enumerare i nomi e le gesta dei vescovi d'Italia e delle isole adiacenti fino ai tempi presenti, e in quest'opera era ben avvertibile la volontà di scuotere gli episcopati col richiamo all'antichità e all'importanza del loro ruolo nell'organizzazione ecclesiastica, rendendoli coscienti del valore della professione di vescovo, titolare cioè della massima autorità dopo quella del Papa, e chiaramente ed implicitamente in un discorso di questo genere nasceva il problema del primato tra dignità vescovile e dignità cardinalizia, e il Papa, che era pur sempre vescovo di Roma, e al tempo stesso il vescovo ufficiale legato a un territorio, a un popolo, a tradizioni storiche peculiari. Una seconda svolta più importante si ha con i due papi di fine 600, Innocenzo XI Odescalchi e Innocenzo XII Pignatelli. Papa Odescalchi e i suoi collaboratori, almeno nella prima fase del pontificato, hanno davanti agli occhi il modello delle diocesi dei vescovi di Francia e di Fiandra. E anche qui, secondo me, anche se non intendo certo rovesciare prospettive storiografiche, però non bisogna indulgere a luoghi comuni. Il conflitto con Luigi XIV penso che non significhi che l'intera curia romana sia ostile al modello della Chiesa gallicana, tutt'altro. Per fare un solo esempio, l'opera del Thomassin riceve lodi e apprezzamenti in ambienti, si direbbe oggi, molto vicini al Santo Padre. Di fatto, Innocenzo XI, con l'appoggio determinante di Giambattista De Luca, sviluppa una riforma organica che, se nel campo dell'organizzazione dei tribunali curiali subisce più di un rovescio o di un insabbiamento, diremmo, la bolla contro il nepotismo era già pronta alla fine degli anni 70, ma fu poi ritirata, per quel che riguarda gli episcopati raggiunge una serie di risultati importanti. Accurata scelta dei vescovi con riguardo alle loro capacità di governo, obbligo della residenza, limitazione e regolamentazione delle pensioni e altro ancora. E quel che è più importante è che i riflessi positivi di questa intensa opera legislativa sono immediatamente avvertibili. Quando nelle storie delle diocesi italiane si arriva agli anni 80 del 600, ci si imbatte con una frequenza insolita nei decenni precedenti in vescovi lodati per aver riordinato l'archivio, per aver indetto un sinodo i cui decreti resteranno in vigore magari per un secolo e più, per aver promosso la nascita e lo sviluppo del seminario, per aver costruito una nuova o ampliato la vecchia residenza episcopale. E qui arriviamo al secondo punto del mio schema, di cui dirò cose che per certi aspetti si avvicinano o comunque si incrociano con quanto ha detto Bizzocchi. La presenza a partire dal tardo 600 e per tutto il 700 di vescovi preparati, residenti e inclini a prendere sul serio la propria funzione riformatrice, anche certamente con eccezioni, ma il quadro generale è questo, è abitualmente considerata un passo importante verso la semplificazione, la centralizzazione, la gerarchizzazione del potere ecclesiastico sul territorio. Due sono gli obiettivi fondamentali che sembrano ispirare l'azione dei vescovi del tardo 600 e della prima metà del 700. Da un lato si tende alla creazione di una vera e propria milizia di sacerdoti, sottolineo il termine milizia, di sacerdoti fedeli e agguerriti, una sorta di stato maggiore composto da ufficiali di curia, vicari foranei e parroci, che fungesse da supporto a una nuova o rinnovata supremazia del vescovo. Contemporaneamente si mira alla difesa dei diritti e delle libertà della Chiesa, con la conservazione, la rivendicazione e magari l'ampliamento di luoghi, beni e diritti di pertinenza vescovile, e anche con la tutela di tutte le persone ecclesiastiche viventi nel territorio diocesano, il che comportava in via preliminare o contestualmente la definizione di chi propriamente rientrava nell'ordine clericale e quindi doveva essere tutelato dal vescovo. Questa strenua difesa dell'immunità comportava uno scontro a tutto campo contro una serie svariata di poteri alternativi, tribunali regi, certamente, ma anche consigli cittadini, singole famiglie, corporazioni, collegi, capitoli e poi anche capitoli cattedrali, collegiate, luoghi pii, ordini regolari, religioni militari, singoli ecclesiastici. Di fronte a questo interventismo episcopale, come si pone la politica centralizzatrice degli stati? Obiettivamente la direzione di marcia era analoga. Entrambi vescovi e principi miravano a eliminare o quantomeno a limitare e controllare la presenza di corpi separati sul territorio ed affermare dovunque fosse possibile una medesima e comune giurisdizione. Dunque, in via teorica, la politica dei vescovi con la riorganizzazione delle diocesi, la riaffermazione dei poteri episcopali e la conseguente definizione di un clero diocesano era compatibile con la politica centralizzatrice e uniformatrice degli stati. E basti pensare al caso francese, penso che per poter confermare questa ipotesi. E anche su questo punto mi pare che il più volte ricordato lavoro di Torre vada in questa direzione. Ma sul piano pratico, e qui appunto mi sento un po' di dissentire da quanto ha detto prima di Bizzocchi, non può essere trascurato o minimizzato il fatto che l'una forza era concorrenziale all'altra. Il clero diocesano, suddito del vescovo, rimaneva pur sempre, nell'ottica del principe, un corpo separato dagli altri sudditi. Per ovviare a questo contrasto, e schematizzo al massimo, erano aperte due strade: rendere i vescovi funzionari del principe, e come sappiamo questa è una via che nel Settecento, adesso al giuseppinismo, fu percorsa, oppure fare del vescovo un principe. E questa può sembrare più paradossale, ma come sappiamo non lo è affatto. La storia del passato, così come la realtà presente dell'impero germanico e della Francia gallicana, offrivano esempi dell'una e dell'altra soluzione. E fino a metà Settecento le commistioni parevano ancora possibili e auspicabili. Come esempio di questo vorrei ricordare le dediche di due libri che sono secondo me molto significative di questo tipo di commistione. La seconda edizione del De Sinodo Diocesana di Benedetto XIV, cioè un libro in cui si parlava del Sinodo Diocesano, in cui si parlava del ruolo dei vescovi, a chi era dedicata? A Maria Teresa. E d'altra parte il Trattato della Pubblica Felicità, oggetto dei Buoni Principi di Ludovico Antonio Muratori, era dedicato a un principe ecclesiastico, al principe arcivescovo di Salisburgo. Cioè il modello del buon principe non era, come si ripete magari spesso, Maria Teresa o Francesco Stefano di Lorena, ma sulla base di questa dedica un principe arcivescovo dell'impero. Nel tratteggiare le caratteristiche principali degli episcopati di fine Seicento in Italia, ho accennato poco fa alla formazione di quella che ho definito milizia diocesana, e a questo aspetto vorrei dedicare la terza parte della mia esposizione. Prima di tutto occorre dire che lo studio delle curie e degli ufficiali vescovili ha costituito a lungo un tema raramente battuto dalla storiografia italiana soprattutto, per ragioni molteplici che rimandano da un lato allo stato delle fonti e dall'altro alle tendenze dominanti della ricerca. È merito di studi recenti sulle visite pastorali, appunto, ma anche sui vicariati forani, sulla giustizia dei tribunali ecclesiastici, aver portato alla luce questo mondo sommerso, anche se, per quanto mi consta, rimane a tutt'oggi valida la constatazione formulata da Paolo Prodi quasi 15 anni fa in merito all'assenza di ricostruzioni complessive delle strutture istituzionali anche di una sola diocesi italiana durante i secoli dell'età moderna. Non sarò certo io a colmare questa lacuna, quindi non aspettatevi molto. Quel che mi propongo è di porre una serie di questioni, di indicare alcune vie che meriterebbero forse di essere percorse, soprattutto in riferimento a ricerche compiute per altri periodi o per altre aree geografiche, e di segnalare gli ostacoli più frequenti che si potrebbero incontrare lungo il cammino. Una delle prime domande per chi intenda studiare una curia diocesana penso che possa essere la seguente: da chi è composta? Ma c'è forse una domanda ancora precedente, cioè occorre chiederci se esista e da quando una specifica e riconoscibile residenza del vescovo in cui abbiano sede gli uffici della curia diocesana. Sembrerebbe una questione superflua di lana caprina, eppure non in sperdute e miserabili diocesi del Mezzogiorno, ma a Siena, come ricaviamo dall'inventario dell'archivio arcivescovile, a suo tempo curato da Giuliano Cattoni e Sonia Fineschi, gli ordinari secenteschi dimorarono spesso nei loro palazzi di famiglia, portandosi dietro l'archivio o parte di esso, e così, dicono i curatori, confondendo e disperdendo le carte. Questo naturalmente nell'ottica dell'archivista odierno. L'archivio avrebbe trovato stabile luogo nel nuovo palazzo arcivescovile ultimato nel 1718, cioè significativamente dopo l'ordinariato di Leonardo Marsili, che recentemente sia Oscar di Simplicio sia Gaetano Greco hanno indicato come il primo arcivescovo impegnato in un vivace attivismo normativo. Fino ad allora, dunque, l'arcivescovo e la sua curia sembrano vivere separati l'uno dall'altro, anche se il prelato abita a Siena. E dunque la situazione non si presenta granché difforme da quella descritta per molte diocesi del 400 e del primo 500, in cui il vescovo si occupa di problemi politici e spesso di alta politica, e il vicario generale, professionista del giure, porta avanti giorno per giorno la routine amministrativa della diocesi. Il rilievo non ci pare marginale. In senso pregnante, residenza del vescovo non significa solo che gli vive nella sede assegnatagli, ma che in prima persona coordina continuativamente l'attività dei suoi subordinati. E questo diventa regola, anche se ancora con molte eccezioni, solo nel corso del Settecento. E perché il caso di Siena non possa sembrare isolato, perché c'è sempre il rischio quando si cita un caso di dire sei andato a scegliere quello che faceva comodo a te, vorrei richiamare il caso della diocesi per eccellenza, cioè l'arcivescovato di Milano. Come è rilevato da una nota di quello che fino a qualche tempo fa fu l'archivista dell'archivio della Curia di Milano, cioè il Palestra, anche a Milano era uso comune che i vari responsabili degli uffici di Curia tenessero nelle proprie abitazioni i documenti relativi alle loro competenze. Per questo i fondi dell'archivio sono estremamente disgregati e completi. Con Carlo Borromeo si ha la prima effettiva organizzazione dell'archivio, che comincia a diventare il centro di raccolta della documentazione relativa di vari uffici curiali. Ma la disposizione data da San Carlo per la formazione complessiva dell'archivio fu attuata solo in parte, perché la consuetudine di tenere i documenti a domicilio non fu del tutto abbandonata. Per di più nel 1609, dovendosi ospitare nel palazzo arcivescovile alcuni vescovi per il settimo concilio provinciale, il cardinal Federico Borromeo diede ordine di sgomberare i locali dell'archivio per metterli a disposizione degli ospiti, e tutti i documenti furono così raccolti in sacchi e depositati per terra in un solaio, dove rimasero fino al 1644, anno in cui il cardinal Monti diede all'archivisca Corno l'incarico di riordinare l'archivio. Si sa però molto poco di questo riordinamento del Corno, e di fatto l'archivio cominciò a essere riordinato solo alla fine del Seicento, e poi definitivamente solo col cardinal Pozzo Bonelli siamo a metà del Settecento. E questo mi pare abbastanza significativo non solo per poi spero di poter dire sulla situazione archivistica di questi archivi di Curia, ma anche proprio per la concezione poco centralistica, diciamo così, che si ha ancora in questo periodo. Resta il problema di verificare se la supplenza esercitata dai vicari, questo è un punto molto centrale, perché si potrebbe comunque dire, vabbè, il vescovo è residente, il vescovo sta nel suo palazzo, però quello che conta è il vicario, e il vicario fa le veci del vescovo, e quindi è come se comunque l'azione del vescovo fosse esercitata. Però io penso che resti comunque da verificare se la supplenza esercitata dai vicari abbia o no reso più debole di fronte agli altri poteri l'esercizio della giurisdizione episcopale. E se l'impegno personale del vescovo, che secondo quanto risulta da molte ricerche, dal tardo 600 è prevalentemente laureato in utroque iure, abbia significato o no un salto qualitativo nel rafforzamento della giurisdizione stessa. Devo dire in tutta onestà che non mi sentirei di rispondere in modo reciso a tale questione. Riguardo alla prima in particolare, cioè il problema, il grosso problema secondo me dei vicari, della supplenza dei vicari, sappiamo troppo poco sull'origine geografica, sull'estrazione sociale, sui legami familiari, sulla preparazione culturale dei vicari generali per poter valutare efficacemente, per poter valutare adeguatamente l'efficacia del loro operato. Occorrono dunque ricerche prosopografiche dalle quali però sarà bene non aspettarci esiti miracolosi. Infatti, sapere chi sono i vicari generali non basta a descrivere il loro concreto operato, per cui le ricerche prosopografiche dovranno necessariamente incrociarsi con lo studio degli atti prodotti dall'ufficio vicariale. Detto così sembra semplice, mi rendo conto che è una cosa da far tremare le vene ai polsi. E qui, secondo un suggerimento che ci viene dagli studiosi, soprattutto degli episcopati del tardo Medioevo, della prima età moderna, penso a Chittolini, penso alla De Sandre e Gasparini, sarà importante delineare consistenza e funzionamento della cancelleria del vescovo, realtà poco conosciuta. Questo ruolo della cancelleria, compito tutt'altro che facile, e per il 600 forse più complicato ancora che per il tardo Medioevo e per la prima età moderna. Dunque, persone, uffici e loro attività. Un punto di partenza ineludibile per le diocesi italiane, l'abbiamo detto poco fa, è la figura del vicario generale, detto anche vicario in spiritualibus, che fin dal 3-400 ingloba in sé anche la figura dell'ufficiale, che altrove, come in Francia, resta distinta. Andrebbe però valutato se sussistono, soprattutto nelle diocesi più estese, e con quali prerogative gli arcidiaconi, che ad esempio per studi che sono stati fatti riguardo a Chartres, a Cambrai, a Strasburgo, a Salisburgo, a Colonia, conservarono per tutto il 600 un ruolo importante, soprattutto per quanto riguarda le visite. Così come andrebbe verificata l'eventuale presenza di vescovi suffragani, titolari di diocesi in partibus, detti anche vicari in pontificalibus, i quali svolsero vere e proprie funzioni episcopali tra 6 e 700 in molte diocesi della Germania e anche della Spagna, per esempio. E poi, è stato richiamato prima da Mazzone, il ruolo dei nunzi come sostitutivi del vescovo, e con potestà anche molto più ampie, in temporalibus e in spiritualibus, e soprattutto in quelle zone, diciamo così, anfibie. Penso a un caso che conosco un po', cioè quello della diocesi di Aquileia, che come si sa dopo lo smembramento, diciamo così, della diocesi di Aquileia, l'acquisizione da parte di Venezia di una parte del Friuli, mentre un'altra parte della diocesi di Aquileia che andava ben oltre il Friuli austriaco, comprendeva anche ampie zone della Carinzia, della Carniola, eccetera. Ecco, tutte queste zone in cui l'arciduca d'Austria non voleva che intervenisse il vescovo veneziano che stava a Udine, vengono spesso visitate dal nunzio. Quindi c'è il nunzio che di fatto per molti secoli, fino all'istituzione di due diocesi separate a Gorizia e a Udine nel 1751, svolge anche funzioni propriamente episcopali. A proposito di questi personaggi che potremmo definire vicevescovi, il discorso sarebbe incompleto però se non prendessimo in considerazione anche i canonici capitolari. Di solito siamo abituati a considerare il capitolo come uno dei più feroci oppositori del vescovo nel governo ecclesiastico della diocesi e soprattutto della città. E non è certo mia intenzione negare questo genere di conflittualità. Ma i canonici, come si dice spesso, uti singuli, cioè singolarmente presi, spesso collaborano col vescovo e talora fanno parte organica del suo entourage. Questo è un aspetto che meriterebbe, secondo me, di essere indagato, su cui penso che ci dirà qualcosa dopo di me la dottoressa Federico a proposito della situazione del Vescovato Trentino. L'analisi delle persone è certo importante, e qui mi sono dovuto limitare proprio quasi a mettere delle etichette senza svolgere i problemi, ma non va trascurato, come dicevo prima, l'esame degli atti prodotti e purtroppo non sempre conservati. Bisogna cioè capire di che cosa si occupassero gli ufficiali vescovili senza lasciarsi fuorviare dalla situazione attuale delle fonti presenti negli archivi delle curie diocesane. Segnalo uno dei pericoli più comuni, nel quale credo che gran parte di noi rischia di cadere, anzi, se devo fare anche un richiamo autobiografico, la mia avviamento, chiamiamolo così, alla ricerca storica è avvenuto proprio su una di queste fonti. È il fascino irresistibile, cioè, della fonte narrativa e descrittiva, come diceva ieri Torre, dialogica, a scapito della registrazione e degli elenchi seriali. In parole povere, privilegiare le visite pastorali e i processi criminali rispetto ai registri delle investiture beneficiali e agli elenchi delle ordinazioni, per fare l'esempio di due fonti di tipo molto diverso. Gli uni e gli altri sono altrettanto importanti per capire se vogliamo porci dal punto di vista di capire il funzionamento della curia diocesana. Così come importante un'altra fonte, che è stata in passato adoperata per lo più episodicamente e non invece vista in modo sistematico, cioè la corrispondenza della cancelleria vescovile. E poi bisogna tener conto che dell'attività di molti personaggi importanti, dei quali non esiste spesso, documentazione diretta negli odierni archivi curiali. Penso per esempio agli esaminatori sinodali. Se sulla base della mia limitata esperienza in questo campo, posso suggerire un metodo di lavoro, direi che sarebbe importante prima definire la composizione della curia vescovile e poi mettersi alla ricerca della documentazione che ai singoli componenti o agli organi collegiali di essa faceva riferimento. E non è detto che la ricerca debba limitarsi agli archivi delle curie vescovili. E qui anticipo una cosa che non riuscirò a dire dato il tempo, cioè la quarta parte del mio intervento. Notizie sull'attività e sulla cultura, sui rapporti col vescovo, sui rapporti con gli altri poteri di questo vicario trentino di fine Settecento non le ho trovate nell'archivio di curia, ma le ho trovate nell'archivio familiare praticamente di questo personaggio, di fatto. Incidentalmente ho accennato poco fa agli organi collegiali. In Italia non mi pare che abbia diffusione come nel mondo tedesco meridionale l'istituto del concistoro, ma d'altra parte risultano molto importanti le congregazioni dei casi di coscienza. Voglio solo segnalare molto rapidamente che esse risultano collegate e ci introducono alla sfera degli organi vescovili periferici, i principali dei quali sono i vicariati foranei. Di questi si era, fino a non molto tempo fa, studiata prevalentemente l'introduzione sul modello borromaico da parte dei vescovi post-tridentini del tardo 500, del primo 600. Ma di recente, penso agli studi per esempio della Billanovic su Gregorio Barbarigo o di Miriam Turrini su Marcello Crescenzi, si è messo in luce come il vero e proprio decollo della istituzione sia un fenomeno relativamente tardo e come questo sia davvero uno degli strumenti principali dell'estensione nella periferia del controllo vescovile. È da notare che solo dopo la metà del Settecento la carica di vicario foraneo sembra diventare un attributo del parroco principale di una determinata circoscrizione, cioè è legato a una effettiva carica già preesistente. L'arciprete, il parroco più importante di una determinata zona, è anche vicario foraneo. mentre per l'epoca precedente il vicario foraneo conserva il carattere proprio di un commissario. Ecco, questo è un altro elemento molto interessante, di un commissario, secondo proprio un parallelo con i commissari regi. In altre parole, la carica può essere assegnata e rimossa ad nutum episcopi a qualunque parroco di sua fiducia. Ecco, come dicevo, penso che non ci sia tempo per sviluppare l'ultima parte del mio intervento e d'altra parte sono abbastanza contento di terminare così senza conclusioni, perché la mia era soltanto una riflessione su vari problemi, credo, aperti della ricerca, e quindi meglio se non ci sono conclusioni. Allora ringrazio Claudio Donati, che ha arricchito di tante ulteriori notazioni il quadro della figura del Vescovo che già conoscevamo dai suoi precedenti studi, e gli ha affiancato una serie di figure che lo affiancano e lo accompagnano nel suo lavoro.